fragile, spento è il colore che la tua pelle fonde e fonde sempre più. Punti all'estremo di qualcosa che ti dà un'immagine che non ti serve. Rubi a te stessa l'anima che ti resta per buttare quello che di nato porti dentro te, in te, in te, in te, in te. Perché sei così indifferente, sapendo che sarà sei così indifferente.